avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno, alla francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La proposta è questa, è quella di aspettare che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite lavori un po' più convintamente sul tema della Libia. La forza delle Nazioni Unite è decisamente superiore a quella delle milizie radicali. Che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. In Libia non c'è una invasione da parte dello Stato Islamico. Alcune milizie che combattevano in Libia hanno iniziato a fare riferimento allo Stato Islamico. Bombe. Bombe. Un'altra guerra. Quella che già abbiamo fatto in Libia mi pare veramente un diabolico perseverare nell'errore. Prima di pensare a fare guerre, a sospendere Mare Nostrum, Triton o qualsiasi tipo di sbarchi, perché invece di andare a combattere il terrorismo oltre il Mediterraneo ce lo stiamo portando in casa. Controordine, compagni, ieri sulle note dell'armata Brancaleone abbiamo detto che eravamo pronti a fare la guerra. Oggi sono passate 24 ore, non siamo più pronti a fare la guerra, quindi dietro front, retromarcia, aspettiamo l'ONU. In fondo a me piaceva volare. Verrebbe da dire aspettiamo l'ONU, sì, ciao, l'ONU. Prima che si muova l'ONU arrivano le ere glaciali, tornano le ere glaciali. In genere l'ONU è uno di quei meccanismi bizantini. Chi è che, per dire, io l'ho studiata un po', ho sentito tanti protagonisti, per carità, sono passati i tempi. Chi si ricorda il 1994, il genocidio in Ruanda? Andate un po' a studiare l'ONU, quello che fece. Velocissimo in quel caso, via tutti, scappare, scappare, che si ammazzino tra di loro. 800.000 persone morte in 100 giorni, una uccisa ogni 5 minuti. L'ONU. Comunque, fiducia, aspettiamo l'ONU, attendiamo l'ONU. L'ONU risolverà, o forse lo farà Al-Sisi, presidente egiziano, che senza aspettare l'ONU, visto che gli hanno sgozzato 21 egiziani, ha fatto decollare i caccia e così ha bombardato un po' di postazioni dello Stato Islamico. La questione comunque è molto seria, è molto, molto profonda. Alle 6:32 minuti siamo qui a parlarne, siamo qui con voi, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapelli in regia. L'unico si può cercare pace, l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro. E siamo nel pieno ormai della 94esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Questo si sa, cari ascoltatori. E siamo anche quasi pronti ormai ad aprire il nostro Parlamento con tanti argomenti da trattare. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Dopo il caffè anche il ministro Boschi. Allora, intanto voglio salutare Marione Adinolfi, ormai ci dorme qua sullo zerbino. Buongiorno, buongiorno. Direttore. Ancora Renzetti, si propone se Edoardo, a parte il cross di Renzetti, Djuric sponda, Brianza! Distanze della Juve abbiamo mantenuto. Neanche ti ricordo quante sono le distanze della Juve. Ma insomma, non lo so, io sai che tu dai dei numeri io, ai quali io non credo sulla distanza. 23 che è anche un numero particolare qui a Roma. Ma non è possibile che di 23 punti ci distanzi dalla Juve, non fai meglio i calcoli perché sì. Secondo me ti sbagli comunque, insomma, bello sto gol di Brienza, ha fatto un bel gol, ha tenuto il calcio. Dovevi mettere l'audio del rigore sbagliato da Vidal, che lì è tutta la sofferenza per noi juventini, è lì. Di arrivare, vincere sul rigore, sul rigore rubato peraltro, perché ce gli ha messo la mano sulla spalla, rigore, c'è anche una soddisfazione, ricordate cari giocatori, non si può mettere una mano sulla spalla di un giocatore della Juve in area di rigore, mica sono fidanzati, insomma, ci ha dato una pacca sulla spalla e quindi rigore per la Juve. Va bene, siamo con Mariona Dinolfi, direttore della Croce e poi la direttorissima per sempre, come sempre, eccola qua la nostra Aurora. Buongiorno caro Milan, un caro saluto anche al direttore Dinolfi e un carissimo saluto agli amici di Radio 24, ma anche posso dai un salutino ai tanti amici di Radio Padania Libera, insomma, che insomma vengono. Sentiamo un po' cosa sta mandando in onda. Questa è Radio Padania adesso. Com'è Radio Padania adesso? Questa è Radio Padania Libera adesso, Aurora. Chi è questa cantante celtica? È perché Sammy Varin scopre nuovi talenti. Ah, e questa che talento è? No, musica del territorio, chilometro zero. La musica a chilometro zero, vabbè. In attesa di capire chi sarà questo nuovo talento. Che con la ugola canta, vabbè, insomma, su Radio Padania Libera. Va bene, certo, puoi fare quello che vuoi, saluta gli amici di Radio Padania Libera, va bene, tutto a posto. Sagre, feste celtiche, ricorrenze. No, nulla. No, ricorrenze, brutta ricorrenza oggi, 4 anni fa in Libia. Sì. Cominciava la rivolta guidata ovviamente dal Qaeda e dai servizi segreti francesi contro Gheddafi, contro il giorno Gheddafi. Della collera. Dopo 4 anni, la Lega ve l'aveva detto, se che amò con la Libia. Vabbè, adesso la Lega l'aveva detto. Oggi Croce Quotidiano titola "Il Papa uccisi perché cristiani". Beh, questo è ovvio. Questo, cioè, è ovvio nel senso. Tanto. Era un complimento nel senso. È così, cioè va detto così, sono stati uccisi, io lo dico da giorni e mi accusano di essere, sono stati uccisi in quanto cristiani, voi conoscete altre religioni che nel 2015, o meglio altre persone che in nome di una specifica religione nel 2015 non tirate in ballo le crociate, fanno queste cose, io no, tu Adinolfi ne conosci? Il tema è, non so, abbiamo titolato così perché è incredibile come sia rimossa questa... Questa questione, insomma, tutte le analisi sono geopolitiche. Io poi mi sono andato a guardare il video, non ho quasi mai il coraggio di guardarli questi video dell'ISIS perché sono veramente terrificanti. Questo video è terrificante, assolutamente, questo delle vetture decapitazioni, ma è anche, devo dire, dal punto di vista tecnico bellissimo, cioè è davvero un film dell'orrore. Loro adesso si sono evoluti da questo punto di vista, fanno queste tecniche. Sì, e dal titolo. Il titolo è "Un messaggio di sangue alla nazione della croce". A tutti i passaggi parlati, diciamo, dello speaker interno, cioè, tutti e solo riferimenti alla croce, al coltello puntato verso Roma, la decapitazione dei crociati, ed è impressionante. Sì, però, in effetti, attenzione, cioè, Mario, perché molti dicono attenzione, perché proprio si cade nella trappola che questi disgraziati, questi sgherri vogliono, e cioè buttarla sul conflitto religioso. In realtà molti mi criticano dicendo guarda che questi della regione non frega niente, è chiaramente un pretesto perché poi ottengono esattamente l'attenzione mediatica su questo. Insomma, l'attenzione mediatica lo ottengono perché il gesto è talmente terrificante che l'attenzione la otterrebbero pure se non dicessero nulla di religioso. Il dato del fatto religioso è che anche all'interno della loro dinamica, cioè la dinamica intra-islamica, loro si propongono come veri e propri defensor fidei, si direbbe, insomma, il califfo al-Baghdadi si chiama così perché vuole farsi papa dei musulmani, quei musulmani che vanno dalla Nigeria al Pakistan, per capirci. Questa guerra diventa mondiale perché i focolai sono ovunque, la Giordania bombarda in Giordania, l'Egitto adesso bombarda in Libia, poi c'è Boko Haram, c'è Al-Qaeda che arriva fino in Pakistan. No, ma che sia uno scenario globale. Allora, questo però è uno scenario che ha a che fare con la dimensione religiosa. Se non indaghiamo il tema religioso di questa tematica, cioè quello che sta cercando di fare al-Baghdadi per farsi papa dell'Islam, cioè di una religione che il papa non ce l'ha, per capirci. Questo è il clou. Però vorrei capire da Aurora che vuol dire, da adesso a dirmi la Lega ve l'aveva detto, ma non è tutta una roba. Ma hai dato della squilibrata quando sono andata alla manifestazione stop invasione, adesso siamo qui a dire che forse lo Stato Islamico è pronto ad invaderci. Ma va bene, ci sono i martiri e speriamo che la gente capisca quello che dice il povero Adinolfi, cioè che ci abbiamo addirittura addosso questa pruderie, questa pavidità, diciamolo pure, sull'origine religiosa di questa guerra. Ma tu pensa anche all'attentatore di Copenaghen, no? È un danese, Omar Abdel Hamid El Hussein. A me proprio vichingo non mi sembrava, però no, l'ho notato anch'io ieri, l'ho pronunciato chiedendo scusa perché non pronuncio la lingua danese con molta ecco. No, vabbè, non mi sembra però... che sia Soren Kierkegaard. Io sì. Il danese ho studiato Soren Kierkegaard, non so voi, quello lì mi sembrava un po' più danese. Cosa vi devo dire? Così, se non abbiamo neanche il coraggio di chiamarle robe con il loro nome, capisci che è tutto più complicato. Poi vabbè, adesso c'è la mediazione di Prodi e quindi risolverà tutto lui, perché hai visto che non è detto, però pare che il governo voglia. Ma perché ridi? Ma il governo si mette d'accordo, ma che c'hai i ministri che dicono una cosa. Adesso, ma tu puoi dire quello che vuoi, ma guarda che Prodi è unanimemente riconosciuto uno dei massimi esperti di geopolitica, di Africa. Sì, va lui a parlare con le tribù, no, ma va bene, ma ci mancherebbe. Ma non è che va lui, dai, cioè nel senso che ci si mette a... dice, ma bisogna mettersi a dialogare, discutere. Allora, mi hai fatto intervenire quante volte, no, con sta roba qui di Mare Nostrum, poi Triton. Allora, sei d'accordo con me che le navi della Marina Militare le dobbiamo dare per difendere i confini, prima ancora di andare a far guerra in casa degli altri? Io sono d'accordo che sia stata una vergogna il fatto che ci abbiano sparato alla capitaneria. Però scusa Aurora, anche la questione, io stai che ti chiamo, tu sei libera di dire quello che vuole, però anch'io questa storia di dire, cioè, lasciamoli in mare, dai, questa è proprio una minchiata. Ma si fa a dire dal punto di vista umano lasciamoli in mare, cioè scientemente fare morire delle persone? Non lo so, cioè io non dico di avere una soluzione, non ce l'ho una soluzione. Ma non ce l'ha nessuno, infatti, non può essere lasciamoli lì. Allora, la riunione del Viminale di ieri, 007, non quegli squilibrati della Lega, rischio delle praticamente il rischio concreto, no? Che l'ISIS mette le mani sul traffico di migranti. Ma già l'ha fatto, non è un rischio. Perché gli sparano le nostre motovedette. Allora, se almeno su questo principio siamo tutti d'accordo, non che si cominci, no, disumani, vergogna. La Marina Militare a casa mia dovrebbe servire a difendere su i confini. Su questo sono d'accordo, armata, cioè non è che può andare a prendere i colpi di Kalashnikov, però non so, Mario Adinolfi, il tuo approccio anche cristiano ti consente di dire lasciamoli lì? È una questione centrale in questo momento. Ovviamente il soccorso in mare non va in discussione, anche se è in discussione il fatto che lo faccia solo l'Italia, perché questa è una cosa davvero straordinaria. Siamo lì, geograficamente siamo lì. Ma insomma, l'Europa è l'Europa, se questa cosa veramente ce la lasciano fare da soli non la possiamo reggere, questo è chiaro. Ma c'è un dato che mi preoccupa, oggi c'è un piccolo editoriale, noi chiamiamo editorialino, sulla prima pagina della Croce, in cui noi raccontiamo questo scenario possibile, ripeto possibile, in cui il famoso nostro atto di soccorso in mare si trasformi poi in una trappola in cui possono essere rapiti militari italiani o soldati o persone della Guardia Costiera. Attenzione, cioè questa è una cosa davvero che ci aprirebbe uno scenario drammatico. L'ISIS non ha più ostaggi occidentali in mano. Gli ultimi sono stati giapponesi uccisi e l'americana morta sotto le bombe giordane. Io sono seriamente preoccupato che un'operazione di recupero in mare possa trasformarsi in una vera e propria trappola. Cioè li chiamano lì e gli sparano. No, non gli sparano. Già l'hanno fatto. Non gli sparano, quello è già successo. Li prendono come ostaggi. Ah. Attenzione, questa è la cosa su cui voglio davvero richiamare la massima attenzione del governo italiano. Non si va semplicemente armati. Si va in una condizione, comprendendo il fatto che se su quel barcone, invece di semplici, diciamo di fra virgolette, mercanti ci sono, di morti, ci sono dei combattenti ISIS che ti prendono quei Kalashnikov, li usano per portarti in Libia poi 7-8 degli italiani. Immagina il caso Marò. Con l'ISIS. Però la situazione a capire, cioè che cosa bisogna fare. Noi settimana scorsa avevamo Gentiloni, perché qui c'è stato Renzi, ha frenato, cioè Renzi adesso dice che ci vuole il Kairos, il momento giusto, no? E racconta che anche nella guerra al terrorismo la comunicazione è tutto. Certo, la comunicazione, qualche cortocircuito c'è stato. Il ministro Pinotti ha detto siamo pronti a mandarne 5.000 e Renzi il giorno dopo ha detto no. Gentiloni ai nostri microfoni una settimana fa aveva detto questo: non è il caso di intervenire militarmente ora? Ma è sicuramente sì, se le condizioni politiche lo consentiranno. Punto è se, grazie all'iniziativa diplomatica delle Nazioni Unite, si ricostruisce un minimo di percorso di ricostruzione nazionale. In questo caso io credo che il governo proporrebbe immediatamente al Parlamento di partecipare a una missione di peacekeeping delle Nazioni Unite. Vabbè, chiamiamola peacekeeping perché bisogna chiamarla così. Però Aurora, una settimana fa Gentiloni ha detto sì, certo, l'ONU, le cose, peacekeeping, però andiamo. Ma sai che facevano bene a lasciarli la Mogherini, tanto per l'inutile lavoro che fa adesso, che rappresenta più che altro se stessa, che la politica europea, si mettono d'accordo, tanto comanda Renzi, quindi chiacchierano tutti i ministri, poi decide ragazzo di Firenze, lo splendido fiorentino, e quindi gli altri chiacchierano, lui decide, basta. Vabbè, allora in attesa della decisione di Renzi andiamo al traffico, che dobbiamo fare, in attesa, 24 mattino. Buongiorno Milan, altro che forcone, la lupara. Dico solo una cosa Renzi, brigati, devi togliere la burocrazia in Italia. Brigati, porcaccia la miseria. Mamma quanto siamo ridicoli. Per fortuna quelli dell'ISIS non hanno portato via la motovedetta e la guardia costiera. Ma te li vedi Milan quando arriveranno in Sicilia, che gli schieriamo contro l'esercito dei forestali con in testa la bandiera dei vitalizi? Mi viene già da ridere. Brunetta, che minaccia di far vedere i sorci verdi al governo. Ma roba, dove trova espressioni così coloriti? Caro Milan, buongiorno. Per quanto riguarda gli amici di Forza Italia e della Lega che hanno abbandonato il campo, tu come buon milanista dovresti sapere che chi abbandona il campo perde 2-0, come gli è successo al Milan in una partita di Coppa Campione. Oh, bello Alessandro Milan, mi piacerebbe tanto ascoltare il signore del Centro Italia che dica l'alternativa per i politici, quello della zappa, però mi piacerebbe ascoltarlo per intero. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Vabbè, così a grande richiesta, a grande richiesta, quello della zappa è sempre uno dei migliori. Tu a chi daresti la zappa da 7 kg, Aurora? Ah, io? Sì. No, così distinto. A chi la daresti in mano la zappa? No, io non sono male a zappare. Ah. Però sono più brava con la vanga. Sei più brava con la vanga? Sì, sono più da vanga. Sei più da vanga. Tu, sì, Mariona, sì, di Nolfi, sì. Ti ci vedi? No, io sono intellettuale, come sai. io proprio non Aurora, non che coltivi Aurora? Tu. Ah, tutto, è l'orto. L'orto, cioè, anche l'orto? Erbe, no, scusa, anche erbe aromatiche e erbe selvatiche, quelle che appartengono alla donna selvatica. Ah, selvaggia. Dimensione anche lì arcaica, ovviamente. Donna selvaggia, eh? Eh sì. Attenzione, attenzione. Visione vagamente erotica di Aurora Lussana. Vagamente, anche togli il vagamente, insomma. Oh, io non so mica come queste qui che hanno la sottomissione, le sfumature, quelle robe lì, no, no. Ah, ma tu l'hai visto, l'hai letto 50 sfumature di grigio? No, perché è ideologicamente contrario alla mia dimensione intellettuale. No, no, è proprio... Cioè, tu vuoi dominare, non essere dominata. No, no, no, no, no, no, assolutamente. A parte che lì c'è sempre una visione economica della sottomissione. E bisogna liberarsi dalle catene del quotidiano e di qualunque sottomissione, e il sesso autentico, orgiastico, è quella roba lì. Ah, ecco. Ci liberiamo, già, è vero. Da tutta, è vero, Marione, perché lei è esatto, sesso capitalismo, no, perché lei per il sesso orgiastico e ancestrale. Di radice celtica, sì, mi ricordo. No, celtica, no, primordiale, quella proprio liberare. No, infatti ha avuto un successo economico commerciale sia il libro che il film, no? Però un sistema di sessualità oppressiva sia per voi uomini che per noi donne. Quindi non è liberatorio. Ecco, non è liberatorio, capito? No, no. Questa era la lezione. È la sottomissione, un po' islamica come cosa, un po' della sottomissione. No, ma cosa c'entra? Cosa c'entra islamica? Dai, adesso tira e lascia stare lì una volta che non c'entrano nulla. Allora, però io dicevo... c'è una sottomissione. Guarda i libri che stanno vendendo di più, quali sono? Submission. 50 sfumature di Islam, qualcuno titola oggi. Eccola, eccola. Però Marione, invece, a proposito di titoli, ma continua il tuo gioco con i nostri ascoltatori? Possiamo sempre... Ma certo, figuriamoci se non diamo il mio cellulare per far svuotare la ricetta telefonica. Vedo che non ti chiamano più per me, capito? Non ti chiamano più per te, esatto. Chiamano direttamente me, e questa è una cosa drammatica. Ovviamente potete farlo, do il numero di cellulare al 334... 3798534. Risponde Mario Adinolfi direttamente. Dopo che finisce la trasmissione, oggi. Cretini, mi raccomando. No, cretini, no. Se dici così, cretini, poi dopo ti chiamano e esordiscono male. 334-3798-534. Quando è libero? Quando è libero? Non quando sto chiudendo il giornale, mannaggia voi. Ah, perché a che ora chiudi? Alle 7:30. Alle 7:30 e poi sono un attimo in una situazione di panico. Esatto, poi vi lamentate che non vi risponde. Comunque, dovete dire qual è il titolo di pagina 5, dov'è lì il titolo di pagina 5 della Croce, e quindi poi potete parlare con Maria Adinolfi. Vabbè, tra l'altro ho letto sul Giorno che in realtà questi scafisti, cioè questi che hanno sparato, la capitaneria di porto è armata. La guardia costiera è armata, adeguatamente armata. Sì. Parla. Ma quali sono le regole d'ingaggio? No, parla un ufficiale, ovviamente sotto anonimato. Dice: noi le armi le abbiamo, e se il pericolo è alto, miriamo al nemico. Il problema è che con 200 persone migranti a bordo, se noi iniziamo a sparare, succedeva una strage. Questo è il concetto. Però certo, si profila quello che Marione Adinolfi dice, speriamo non accada. No, prepariamoci al fatto che possa accadere e alla risposta che siamo in grado di dare in mare in quel momento. Perché se questo, voglio capire, io ho sentito questa giustificazione anche ieri a Porta, cioè loro hanno sparato gli scafisti, sì, e la nostra guardia costiera non ha risposto perché ha detto avevamo i migranti a bordo. Ma ovviamente loro tenteranno una forma d'assalto di quel genere avendo loro i migranti a bordo, tenteranno un atto che si compirà con un elemento di sorpresa, non è che arrivano con uno striscione dicendo adesso vi rapiamo i... Sì, non gliene frega molto di uccidere anche 30 migranti. Sì. Noi che facciamo? Noi che tipo di, appunto ha detto bene Lussana, che tipo di regola d'ingaggio abbiamo rispetto a un'ipotesi del genere? Questa ipotesi è estremamente preoccupante. Aurora, ripeto, l'ISIS non ha ostaggi occidentali ora in mano. Intanto... E gli italiani per loro sarebbero una cosa più Intanto io che devo fare? Vi devo salutare. Grazie Marione, direttore della Croce, la ricetta Aurora ce la dai la prossima? No, zuppa di cipolle anti-ISIS. Zuppa di cipolle anti-ISIS, li uccideremo così con l'alito. Va bene, ciao a tutti. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 7:16 minuti. Buongiorno a tutti voi, cari debosciati d'Italia. Non lo dico da un po', debosciati miei. Siete già in pista? Forza, oggi noi parliamo di Libia, e di noi, dell'Italia, dell'ISIS, dei timori, delle guerre o non guerre, dell'andiamo in guerra, no, è tempo di aspettare l'ONU. Avremo ospite da Tripoli il vescovo Martinelli, uno dei pochissimi italiani rimasti lì. Dice: io rimango qui, pronto anche al martirio se questa è la mia strada. Avremo ospiti anche il generale Cabigiosu, parleremo insomma anche di migranti. Ci sarà il giornalista di Repubblica Viviano, che è uno dei primi a raccontare come l'ISIS, o comunque come i jihadisti, abbiano in mano le coste della Libia, con il rischio, ora si dice, di arrivi e sbarchi in massa di migranti. Insomma, di questo parleremo più avanti, dalle 8:15, ora andiamo però a leggere i giornali. In questo martedì 17 febbraio i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre sull'Europa che gela Atene, ultimatum sul piano dell'Unione Europea. Mentre l'attualità internazionale ritorna in prima pagina sul Corriere della Sera proprio sulla questione Libia, pioggia di bombe egiziane sull'ISIS. Questo è il titolo di prima pagina, così anche il Messaggero: Libia, raid egiziani contro l'ISIS. E Repubblica: Tripoli, agite o l'ISIS arriva a Roma. Renzi frena sull'intervento militare. È molto emblematico il titolo del giornale, anche enfatico direi: arriva l'ISIS, armiamoci. Io ho chiesto già a mio figlio Mattia la spada in prestito, non so quanto possa servire. Libero: Renzi scappa, ci salverà l'Egitto. Mentre il Fatto Quotidiano: la retromarcia su Tripoli. Anche per la Stampa: intervento in Libia, Renzi frena. Così il Secolo XIX, mentre Avvenire titola: le bombe dell'Egitto sul califfato libico. Il Manifesto invece: Eurotruppen, si ritorna sul concetto Grecia. Comunque i temi che vedete in apertura sono o la Libia o la Grecia. Voglio però partire dal racconto di altre cose, come al solito. Beh, è ancora viva l'emozione, anche lo sdegno. C'è un'inchiesta in corso per la vicenda della bimba, la piccola Nicole, nata in una clinica privata a Catania e morta perché non si trovava un posto per trasferirla poi a Ragusa quando ormai era troppo tardi. E beh, capite che leggere, proprio mentre c'è ancora lo sdegno per questa e altre vicende sulle quali si sta indagando, ma leggere che proprio in questi giorni, mentre succedeva questo caso di cronaca, il capo del 118 di Palermo, che si è ammalato in Sardegna, viene trasportato di notte all'ospedale della sua Palermo per essere operato, come dire, fa quantomeno un pochino sospirare. Il titolo, e questa storia è ovunque sui giornali: l'elicottero come taxi, bufera sul capo del 118, pagina 18 di Repubblica. Emanuele Lauria racconta la vicenda di Gaetano Marchese, direttore appunto della centrale operativa del 118 di Palermo, che era ad Alghero, si è sentito male con problemi cardiaci, ha chiamato mentre si trovava lì l'elicottero per farsi trasportare e curare in Sicilia. Anche Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, pagina 20, racconta quel volo su misura per il direttore del 118. Si ammala in Sardegna, viene trasportato di notte all'ospedale della sua Palermo. Succede che cosa, racconta Stella, e citando l'Unione Sarda. 15 gennaio, poco dopo le 23, al 118 arriva una segnalazione di un paziente, un turista, con un forte dolore al torace. Si teme l'infarto, viene inviata un'ambulanza medicalizzata. No, non è un infarto, ma c'è bisogno di accertamenti urgenti. Quel turista, si scopre, è Gaetano Marchese, 60 anni, direttore della centrale operativa del 118 di Palermo. La vicenda si complica, diventa grave, potrebbero portarlo a Sassari. a 20 minuti all'ospedale, dove c'è un'equipe tra l'altro straordinaria, la chirurgia vascolare del professor Boatto, medico di origine veneziana, considerata di assoluta eccellenza. Ma lui a un certo punto dice: voglio andare a Palermo, avevo compreso i sintomi, visto che mia madre aveva avuto la stessa patologia. Ammette che sì, certo, gli avevano proposto di andare a Sassari, ma visto che si era perso tempo prezioso pensando di dover essere trasferito invece a Cagliari, avevo chiesto e ottenuto il trasferimento all'ISMET di Palermo. E allora parte un elicottero Augusta 139 con a bordo due equipe di rianimatori, rientra all'alba e viene operato, costo 15.000 euro. Lui dice: nessun abuso è stato compiuto da medico, ho solo tutelato la mia salute come quella di tanti pazienti trasportati e salvati dal 118. Si chiede Stella: sarà? Onestamente però rimane una domanda. Quell'elicottero del 118 sarebbe decollato nella notte per una neonata figlia di una coppia qualunque? Questo sul Corriere della Sera, ma il tema, ripeto, lo trovate ovunque, anche Libero. Il capo del 118 vuol cambiare ospedale dalla Sardegna a Palermo in elisoccorso. Una pagina. A pagina 17. A proposito di malattie, ieri ha fatto davvero, io spero che voi abbiate rileggiato, sì, questo così parlo ormai alle 7:22, spero che abbiate letto ciò che è stata la testimonianza di Emma Bonino, che ha raccontato a Repubblica il suo tumore al polmone. Ebbene, oggi Repubblica torna con l'intervento di Umberto Veronesi: non pazienti ma persone, la battaglia civile di Emma nel nome di tutti i malati. Tra l'altro Repubblica mette in pagina, pagina 19, anche il numero cospicuo di lettere di solidarietà che sono arrivate all'esponente dei radicali Emma Bonino. Caro direttore, scrive Veronesi, le sono grato per aver dedicato lo spazio di un'ampia intervista alla lotta al tumore di Emma Bonino. Emma, che non rinuncia a esprimere la sua visione politica, questa volta è più importante scoprire come affronta quotidianamente una malattia seria. Ognuno, se vuole, si può identificare in questa donna che nell'intervista emerge come persona che lucidamente affronta un'avversità particolarmente difficile della vita. Racconta Veronesi, la testimonianza di Emma Bonino evidenzia uno dei cardini della medicina moderna, soprattutto dell'oncologia, l'importanza di parlare di sé e della propria malattia. Chi è malato ha un racconto e ha un profondo bisogno di raccontarsi, e questo racconto diventa una funzione e ha una funzione terapeutica. Quante volte capita che i malati, i familiari escano dall'ambulatorio di un medico con la mente piena di informazioni, ma anche di dubbi, domande che non sono riuscite a esprimere. Per non parlare della situazione degli ospedali, dove come per un sortilegio la persona malata perde la sua dignità. Prima di entrare in sala operatoria ho sentito molti colleghi dire: cosa abbiamo oggi? Un polmone e due vesciche. Ma come? Anche Emma dice: io non sono il mio tumore, così deve essere per tutti. La medicina deve tornare a essere medicina della persona, come era prima del Settecento, senza perdere la sua acquisita scientificità, ma recuperando la sua dimensione olistica. Eliminiamo allora la parola paziente, scrive Veronesi, che ci ricorda qualcuno che subisce in silenzio. E parliamo di donne e uomini con un progetto di vita e un progetto di fine vita. Ce lo rammenta anche la Bonino. Nell'era dell'autodeterminazione, in cui la persona sceglie se e come curarsi e come vivere la sua malattia, deve esistere anche il diritto di scegliere come morire. Beh, Veronesi racconta tante cose, in ultimo ancora questa sua battaglia personale che fa da tempo per il diritto di scelta anche di come morire. Sapete che il professor Veronesi non ha mai fatto mistero di essere anche a favore dell'eutanasia. Venendo alle altre cose, beh, avete visto alle cose un po', certamente un po' più leggere, se volete. Avete visto che c'è un nuovo segretario generale del Quirinale, si tratta di Ugo Zampetti, è stato il segretario generale della Camera, ha molto colpito positivamente i commenti di tutti, a dire Ugo Zampetti farà e svolgerà questo incarico importante al Quirinale senza uno stipendio. Per la verità, insomma, diciamo che alcuni giornali sono un po' vanno un po' a fare le pulci. a questa decisione? Beh, per il Fatto Quotidiano, Ugo Zampetti, ancora lui, il dinosauro sale al colle, il racconto di una, come dire, di una delle storie della burocrazia parlamentare, che diventa una burocrazia che sale al Quirinale per 3 lustri, quindi per 15 anni è stata al vertice della Camera, si parlava a lungo del suo stipendio fino ai 600.000 euro lordi all'anno. E Libero e anche Il Giornale raccontano che la decisione di non ricevere compenso in realtà potrebbe essere legata a un altro fatto. Eccolo qui, per Libero è la prima presa in giro. Segretario gratis, ma è una bufala, cioè è gratis perché se avesse preso uno stipendio avrebbe dovuto rinunciare alla pensione da segretario generale della Camera, che è ben più ricca dello stipendio che avrebbe ricevuto da segretario del Quirinale. E anche per Il Giornale, Zampetti al Quirinale senza compenso, ma perché ha una pensione da 500.000. Vabbè, questo lo trovate un po' sui vari giornali, ma è il momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani strette al volante se siete alla guida, se siete alla guida, se siete come al solito dei debosciati, attardati nelle vostre colazioni, appoggiate tutto ciò che potrebbe in questo momento contundere. Non so, un coltello oppure anche solo il caffè bollente. Raccontiamo ciò che racconta Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano e riguarda il Molise. Il titolo è questo: Molise, una metro tutta in famiglia del governatore. È la vicenda dello studio per fare 40 chilometri tra Matrice e Boiano, uno studio da 24 milioni di euro che fu messo a punto dalla società Proter SRL, di cui socio era nel 2003 Paolo Di Laura Frattura. Paolo Di Laura Frattura ottiene come Proter dalla regione l'incarico di studiare un sistema di mobilità veloce tra il comune di Matrice, 1071 abitanti, e il comune di Boiano, 7946 abitanti, una quarantina di noiosi chilometri con attraversamento di Campobasso. La Proter fa tutto uno studio del 2003 e questo studio viene ora approvato. Oggi il sogno finalmente è realtà. Con soli 24 milioni di euro sarà possibile scollinare senza incubo il traffico paesano. La regione finalmente ha deciso. Il presidente Paolo Di Laura Frattura ha approvato l'idea fatta dalla Proter qualche anno fa, di cui era socio Paolo Di Laura Frattura. Trattasi ovviamente della stessa persona. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. È tornato il panettiere dell'informazione. Allora, la Libia. Ieri abbiamo detto che c'erano dichiarazioni da parte di alcuni ministri. Il ministro Gentiloni è stato nostro ospite anche una settimana fa, esattamente, e a dire, in Libia se c'è da fare la guerra si può fare, ovviamente se c'è una risoluzione internazionale dell'ONU. Poi il ministro Pinotti, ministro della difesa, aveva parlato di 5.000 soldati già pronti, se vogliamo. Ieri Renzi ha frenato e tutti i giornali fanno notare che c'è stata questa retromarcia, qualcuno parla addirittura di sconfessione proprio dei propri ministri da parte del Presidente del Consiglio. Comunque Renzi frena, questo è il titolo che trovate un po' ovunque sul Corriere della Sera, pagina 2. Niente isterismi, non è tempo di azioni militari. Non è il tempo dell'intervento militare, ha detto ieri al TG5. La posizione del governo è univoca ed è quella di aspettare che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU lavori un po' più convintamente sul tema della Libia. A questo proposito, siccome c'è un inviato dell'ONU che però Renzi stesso ha criticato più volte, anche ieri, a dire si spera che l'ONU lavori più convintamente. Ecco, fuori dal gergo diplomatico vuol dire non state facendo abbastanza. La carta, secondo il governo italiano, è quella di mettere in campo Romano Prodi. Si legge almeno con Paolo Valentino a pagina 3 del Corriere della Sera: sul tavolo la carta Prodi, e sarebbe questo il nome che il governo italiano vuole spendere nella partita libica. Al momento si tratta di un'ipotesi, è largamente discussa, ma ci sono indicazioni diverse e concordanti che sia l'ex presidente del Consiglio la personalità su cui punterà l'Italia per affiancare il mediatore in carica delle Nazioni Unite, che è Bernardino León. Tra l'altro ci sono stati anche dei racconti nei giorni scorsi e nei mesi scorsi di un riavvicinamento tra Renzi e Prodi. Prima ci sarebbe stato invece un raffreddamento nei rapporti, tanto che l'accusa a Renzi è di non avere spinto abbastanza per Romano Prodi come inviato dell'ONU, tanto che poi l'ONU ha scelto questo Bernardino León spagnolo. Renzi, nel retroscena raccontato da Maria Teresa Meli a pagina 2 del Corriere della Sera, invece dice: fino a oggi è stato Romano a non volere andare in Libia, partendo dal presupposto che lì non lo volevano perché ci sono centinaia di foto di lui con Gheddafi. Questa è la linea a pagina 2 del Corriere di Renzi, cioè a dire: non sono io che non lo volevo mandare, ma è lui che finora ha frenato. Comunque, sarà Romano Prodi la carta italiana? Intanto Sergio Romano, in prima pagina del Corriere della Sera, fa un editoriale dal titolo La maschera del nemico e si chiede, Sergio Romano: è giusto che l'apparizione in Libia dell'ISIS susciti le nostre preoccupazioni? È naturale che il governo debba prendere in considerazione la possibilità di un conflitto? Il riferimento all'ONU è però inevitabile. Per chi voglia opporsi con le armi all'ISIS occorre un mandato internazionale, ma il mandato ONU da solo non basterebbe. Vorremmo qualche notizia in più sulla natura dei nemici. Chi sono? Una delle tante milizie libiche create dopo la dissennata operazione franco-britannica del 2011? Sono salafiti provenienti dal Sahara? Obbediscono al califfo al-Baghdadi? O hanno scelto il marchio di fabbrica vincente nella gara del terrore? L'ISIS sta combattendo anche una guerra psicologica. Conosciamo male l'organizzazione, ma sappiamo che ogni gruppo terroristico sopravvive soltanto se sostituisce i morti con le nuove reclute. Noi siamo male attrezzati, militarmente e psicologicamente, per vincere guerre di guerriglia contro chi non esita a usare la propria vita come un'arma. La Libia è certamente un problema italiano, ma anche un problema mediterraneo e dell'Unione Europea. Questo Sergio Romano in prima pagina del Corriere della Sera. Tra l'altro ci sono dettagli riguardo a quello che è stato il raid egiziano. Un raid egiziano dopo che sono stati uccisi e decapitati 21 copti egiziani, il presidente al-Sisi ha mandato i caccia a bombardare. Una decisione che, come racconta Repubblica, pagina 3, sotto il titolo «Non ci faremo dettare la politica estera», un retroscena, Matteo Renzi giudica negativa questa decisione del Cairo di bombardare. Prima di immaginare qualsiasi intervento di peace and forcing bisogna coinvolgere tutte le fazioni in un patto di unità nazionale. Dunque, Renzi giudica un errore dal punto di vista interno la decisione del Cairo di bombardare e non ha perso tempo per dirlo personalmente ad al-Sisi. Ieri c'è stata una telefonata tra Renzi e al-Sisi. Mentre Libero titola così: lo scontro è inevitabile, armiamo l'Egitto. E anche il Fatto Quotidiano: morire per Tripoli già dato, al-Sisi salvaci tu. Adesso tutti guardiamo all'Egitto come possibile, altro che ONU, come possibile risolutore della situazione libica. Ma ci sono nuovi dettagli su quello che per me è l'episodio più increscioso che è avvenuto due giorni fa, e cioè la capitaneria di porto che è andata a salvare 200 migranti e si è vista presentare su un barchino quattro terroristi, come li vogliamo chiamare, armati di Kalashnikov, che ora si scopre hanno pure sparato a pelo d'acqua per intimare la Guardia Costiera di farsi restituire il barcone con cui avevano trasbordato i migranti. Cosa che è successa, la Guardia Costiera ha desistito. E allora ci si chiede: ma non abbiamo armi a bordo? Il Giorno torna su questa vicenda: colpi a raffica sulla motovedetta, era rischioso rispondere al fuoco. C'è anche un'intervista di un sottufficiale guardacoste che, sotto anonimato, altrimenti dice rischio il provvedimento disciplinare e vorrei evitare, racconta delle armi. Intervistato da Alessandro Farrugia dice: certo che siamo armati, abbiamo le armi per la difesa delle installazioni e quelle per le unità maggiori. Sostanzialmente, se è sotto attacco, si possono usare. Una circolare interna ha stabilito criteri un po' più elastici, ma il ricorso alle armi è visto come estrema ratio. E infatti anche il comandante della Guardia Costiera, l'ammiraglio Angrisano, dice: se avessimo usato le armi avremmo rischiato una strage, c'erano 200 persone appunto che avevamo appena salvato. E che armi avete in dotazione? Beh, quel pattugliatore era armato, armi leggere, fucile mitragliatore Beretta, la pistola mitragliatrice Beretta, la mitragliatrice MG59, la Browning da 12,7, ma lasciamo troppo stare i dettagli e le quantità perché non vogliamo informare chi ci vuole sparare contro. Ma vi servono queste armi? Come si è visto, sì, ma non solo per rispondere a eventuali scafisti, servono anche in Italia. Certo, non tutte le unità della Guardia Costiera sono armate. Ecco, i fucili li abbiamo, se il pericolo è alto miriamo al nemico. Questo parla così, spiega il sottufficiale anonimo di uno della Guardia Costiera che è stata bersaglio dei terroristi nei giorni scorsi. Tra l'altro la questione dei migranti che tratteremo è legata proprio a questa tematica, perché ci sono delle cifre, forse anche buttate un po' lì, adesso voglio dire, il Corriere della Sera parla di 200.000 possibili nuovi arrivi, perché i terroristi controllano ormai anche le coste della Libia e la strategia è questa, Fiorenza Sarzanini a pagina 9, la strategia è quella di portare il maggior numero di sbarchi per creare caos, proprio una strategia militare quasi, una strategia di guerra. L'ipotesi ritenuta verosimile è quella di un esodo di massa, almeno 200.000 stranieri caricati sui barconi e mandati verso l'Europa. Persone che sono già in Libia, arrivate nei mesi scorsi con la prospettiva di imbarcarsi e ora ammassate nei porti per costringerle a partire nel tentativo di creare una situazione di caos. Tra loro ci sono anche migliaia di egiziani in fuga per il terrore di essere sequestrati e uccisi e che non riescono a rientrare in patria perché dovrebbero passare dalle zone già occupate dai fondamentalisti dell'ISIS. Insomma, il Corriere parla di 200.000 nuovi arrivi. Libero dice sono 600.000. Ecco, voglio dire, vabbè, fermiamoci qui con i numeri perché poi sennò al terzo ce lo giochiamo al terno secco sulla ruota di Venezia. Voglio salutare Mauro Meazza, buongiorno Maurino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cos'è tutta questa confidenza improvvisamente, dottor Milan? Tenga le distanze. Teniamo le distanze, sì, sì. Teniamo le distanze, dottor Milan. Volevo dire sulle questioni libiche, sul Sole 24 di oggi, anche gli aspetti, non solo le vicende umanitarie e possibili sviluppi anche di tipo bellico, ma anche le vicende economiche, perché come sai la Libia è fra l'altro un paese per noi importante dal punto di vista economico degli investimenti. Questo sul Sole 24 Ore di oggi, insieme ad altre questioni che ci avvicinano al 20 febbraio, sai che noi siamo di questo gruppo Orizzonte 20 febbraio, non so se tu ti eri iscritto a questo gruppo. No, però potrei farlo oggi. Ecco, perché l'orizzonte 20 febbraio, nel senso che si aspetta questo Consiglio dei Ministri abbastanza decisivo, scusa se uso questa parola che ti è cara, e tra l'altro dove dovremmo avviare anche l'addio allo scontrino, è mica una cosa da poco, perché si darebbe una spinta decisiva all'utilizzo dei pagamenti elettronici, però ecco, vorrei precisare, prima che qualcuno si facesse cogliere da eccessivi entusiasmi, l'addio allo scontrino verrà poi effettuato dal 2017, quindi non oggi ancora bisogna avere gli scontrini, e c'è tutta una strategia anche di contrasto al contante, ma trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi insieme a tutte le altre cose che si devono fare il 20 febbraio, cioè ad esempio il Jobs Act, i decreti del Jobs Act e il decreto sulla legge sulla concorrenza. Sì, e aggiungo Mauro che parla nei giornali anche dell'ipotesi di introdurre la questione dello ius soli, pare che voglia Renzi accelerare su questo, cioè a dire chi nasce in Italia è automaticamente italiano, come negli Stati Uniti. Tutto quanto il 20 febbraio. Ma adesso quindi non lo so, no, forse questo nel Consiglio dei Ministri successivo. Una giornatina di quelle calde, come dire. Bene, poi ti volevo dire, i due urini, tu dici sì. di aver spostato dalla Svizzera alla chiavetta per il caffè. Non è che li hai messi a Monaco, vero? No, perché... no. Però leggo no, che anche perché... lì sarebbe un problema adesso. Perché guarda che anche Monaco rinuncia al segreto bancario e tutti i particolari sulle pagine enorme tributi. Tu adesso me li hai spostati a Monaco e guarda, devi andare a cercare Devo altri Devo cercare paesi. Altri lidi, come dire. Devi altri cercare lidi. Altri lidi, esatto, esatto. Devi cercare altri lidi più compiacenti e meno trasparenti. Tra l'altro, interessante, sempre nelle pagine enorme tributi una decisione del Tribunale di Lugano che ha bocciato il diniego delle banche svizzere ai prelievi da parte dei suoi clienti, diciamo così, un po' come te con i due urini, ecco, che non erano proprio, erano più che contribuenti, erano aspiranti tali, ecco, volevano prelevare, gli è stato opposto un rifiuto, loro sono andati dal tribunale locale e gli ha dato ragione, ma leggi tutto sulle pagine di norme tributi. E poi ti volevo dire in chiusura, tu che ami Twitter, guarda che hanno chiarito che il tweet, anche se è di un ministro, sì. non ha un valore poi ufficiale, cioè non diventa una legge, come dire, una rondine non fa primavera, diceva il proverbio, e un tweet non fa una norma. Ho letto riguardo all'ex ministro Brai, che fece un tweet che però non è stato considerato in giudizio, diciamo. No, diciamo che gli si è opposto che ci vorrebbe un atto formale, insomma, sarebbe più elegante avere un atto formale, questo lo dico, insomma, anche in previsione del 20 di febbraio, se abbiamo sei polemico, tweet... sei polemico, no, fate no, subito no, fuori Mauro Meazza, queste trasmissioni radiofoniche non vanno più bene, vanno cambiate e quindi ma questo perché sei partito con la confidenza e adesso arriviamo alle minacce, va bene. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione, eccola là direttamente dall'isola dei famosi. Allora, sul Sole 24 Ore c'è anche molto sulla Grecia e il rapporto Europa-Grecia che suona, fa registrare nel termometro politico un gelo ieri, perché l'Unione Europea ha avvertito Atene dicendo accettate la proroga del piano sul debito, avete tempo fino a giovedì per decidere, un vero e proprio ultimatum, dopo che ieri l'Eurogruppo si è concluso con un nulla di fatto. Il governo di Atene ha bocciato la proposta di un'estensione tecnica di 6 mesi dell'attuale programma. Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, dice sono irresponsabili, mentre Atene dicono è inaccettabile tutto ciò. Che succederà? Sarà una settimana molto calda, tra l'altro vi segnalo Vittorio Darold a pagina 3 del Sole 24 Ore racconta appunto il taglio dell'avanzo primario all'1,5%, cosa comporterebbe? Comporterebbe nuovi crediti di 45 miliardi nei prossimi 5 anni da parte dei creditori internazionali nei confronti di Atene. Non solo, a bocce ferme bisognerà trovare altri 12,6 miliardi di euro di gap finanziario, che sommata ai 45, dunque fanno 57 miliardi di euro di ammanco. Questo è ciò che Zsolt Darvas, economista del think tank Bruegel di Bruxelles, esperto di Grecia, stima se il governo Tsipras dovesse ottenere la riduzione dell'avanzo primario dal 3% nel 2015 e del 4,5% nel 2016 del PIL all'1,5%. Dunque, con questa riduzione dell'avanzo primario si dovrebbero trovare 57 miliardi nei prossimi 5 anni per la Grecia. Comunque, il ministro delle finanze Varoufakis, greco, ha frenato e ha congelato i programmi di messa a punto sul mercato delle principali aziende pubbliche, cosa che aveva annunciato nel momento in cui c'è stata l'elezione, tra queste la società dell'energia elettrica, la più importante raffineria greca, la Hellenic Petroleum. Certo, si guarda a fine marzo, oltre alla data di questa settimana, a fine marzo, dove il governo Tsipras, fa sapere Darold, non avrà più contanti per pagare stipendi e pensioni. È chiaro che se si arriva a quel punto è il punto della catastrofe. Sapete, uno Stato quando non paga più stipendi e pensioni c'è il rischio, vuol dire, dell'implosione sociale. Per quel che riguarda invece la politica italiana, Vabbè, vi lascio il solito balletto sulle riforme. Oggi iniziano i colloqui, tra l'altro, tra il Presidente della Repubblica, Mattarella, che riceverà i partiti, c'è Renzi. Ogni giorno è la stessa cosa. Renzi che dice non cederemo, Brunetta che dice li faremo vedere i sorci verdi. Ma ragazzi, ma fate qualcosa. È un racconto estenuante di una noia mortale. Ogni giorno è questo balletto di posizioni, riposizionamenti, un passo indietro, un passo avanti, una cosa veramente incredibile. La notizia politica più interessante è che è stato trovato l'accordo sul falso in bilancio e la prescrizione, racconta Liana Milella a pagina 14 Repubblica. Falso in bilancio, accordo sulla riforma, impunità più difficile. La novità sostanziale per il falso e la conferma per la prescrizione, la novità è questa: reato perseguibile d'ufficio, abolita definitivamente la querela di parte. Poi tre diversi step di punibilità: da 2 a 6 anni per le imprese non quotate, da 3 a 8 anni per le imprese quotate, da 1 a 3 anni per le piccole imprese. Quest'ultima è la novità di ieri, perché scompare definitivamente la soglia di non punibilità del 5%, scomoda eredità del falso in bilancio voluto da Berlusconi nel 2001 per far morire di prescrizione i suoi processi, scrive Repubblica. Le piccole imprese vengono individuate economicamente sulla base della legge fallimentare del 42, che fissa in 200.000 euro la cifra per dichiarare un fallimento. L'impresa che raggiunge i 600.000 euro, cioè 3 volte quella minima del fallimento, potrà rientrare nella categoria in cui il reale di falso viene punito in modo più lieve. Comunque ci sono tutti i dettagli dell'accordo sul falso in bilancio, Repubblica ne scrive a pagina 14. Un po' di cronaca. Beh, intanto c'è una notizia che riguarda la vicenda Yara Gambirasio, è la notizia che Grazia Longo dà sulla stampa. Yara Gambirasio si studia sempre il DNA dell'unico indagato Massimo Bossetti e, secondo gli ultimi studi della procura, sui pantaloncini c'è la prova che Yara salì sul furgone di Bossetti. Svolta dopo le ultime analisi del RIS di Parma, i fili trovati sugli indumenti sono gli stessi fili trovati sui sedili del furgone di Bossetti. Ovviamente sarà un processo, immagino indiziario, in cui si giocherà molto sulle prove del DNA, ma gli inquirenti assicurano è la prova che salì sul suo furgone. Mentre invece il giornale ha una notizia che ci riporta del passato e riguarda un ex brigatista, fantasma da 36 anni, si tratta di Maurizio Baldasseroni. Maurizio Baldasseroni, militante di prima linea che insieme a un compagno nel 78 ammazzò 3 innocenti padri di famiglia con cui aveva litigato al bar. Racconta Luca Fazzo del giornale a pagina 14, c'è una traccia, sottile ma precisa, colui che veniva dato per morto dai familiari, secondo gli inquirenti, invece non è morto come vorrebbero far credere i suoi parenti. Lo ha deciso il giudice che ha respinto la dichiarazione di morte presunta che lo avrebbe cancellato per sempre dall'elenco dei ricercati. Secondo alcuni, alla Procura di Milano, Baldasseroni non è morto e potrebbe e dovrebbe essere ancora cercato. Questo è raccontato dal giornale. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali a mio insindacabile giudizio. Ricordate, cari ascoltatori, oggi vince il Corriere della Sera con mezza pagina su un dilemma grave, forte, profondo, che spacca le coscienze, ed è questo: ma è meglio il lago di Como o il lago di Garda? Ma chi se ne frega? Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi tutti i giornali, se li prendete, raccontano di come il premier Matteo Renzi abbia in qualche modo frenato sul fronte dell'intervento militare in Libia, dopo che sia il ministro degli esteri Gentiloni, sia il ministro Pinotti alla difesa, che aveva detto abbiamo pronti 5.000 uomini, sembravano avere un po' accelerato. Invece retromarcia su Tripoli, niente fretta, frenata. Questi sono i titoli che vedrete maggiormente gettonati sui quotidiani italiani. italiani. Renzi giudica affrettati anche i raid aerei dell'Egitto sulla Libia. Raid che ci sono stati dopo che i miliziani hanno ucciso 21 egiziani copti, cioè cristiani, decapitati. E allora il presidente al-Sisi ha lanciato appunto dei bombardamenti sui miliziani, sugli estremisti islamici in Libia. Per Renzi questo è un errore, bisogna aspettare l'ONU. Tra l'altro racconta il Corriere della Sera che l'Italia avrebbe una carta in mano, questa carta si chiama Romano Prodi, cioè sarebbe l'uomo da affiancare al diplomatico che in questo momento tiene le fila con la Libia, con quello che è rimasto della Libia, Bernardino Leon, che viene giudicato poco efficace dagli italiani. E dunque, guerra sì, guerra no, il timore di quello che sta succedendo in Libia è molto molto concreto. Dalla Libia sono fuggiti tutti gli italiani, o meglio non tutti. Chi è rimasto, e lo voglio salutare, è Giovanni Innocenzo Martinelli, vale a dire il vicario apostolico di Tripoli. Buongiorno, buongiorno Monsignor Martinelli. Buongiorno, sono il capo dell'ENI, il capo del consolato, dell'ambasciata. È l'unico. Tutte le responsabilità ricadono sulle mie spalle. Il capo dell'ENI. Senta, Monsignor Martinelli, perché lei rimane lì? Lo so, gliel'hanno chiesto in tanti. C'è una responsabilità morale. C'è ancora un bel gruppo di cristiani filippini, forse un 300 persone. Ha sentito e però. Adesso incomincia anche, tra l'altro, incomincia la Quaresima. Io non ho ragione di uscire, io non ho paura, io amo il popolo libico e mi fa piacere star con loro in questo momento, perché si sono create troppi equivoci. Desidero chiarire a loro e a noi le cose che vanno chiarite. Però Monsignore, ci faccia capire, lei può uscire, andare liberamente per Tripoli oppure no? Sì, volendo sì, io non ci tengo, perché non ci tengo molto andare in giro, perché ci sono sempre matti che possono scherzare. Io sto bene dove mi trovo, i miei servizi li faccio con tranquillità e poi all'occasione certamente c'è la celebrazione per la nostra gente. Sì. Essere disponibile per quelli che vengono. Dica. Ha sentito però Monsignor Martinelli anche dei 21 copti decapitati? Copti questi vuol dire? Questi sono matti. Questi non hanno il senso della storia. Il popolo copto è un popolo che arabo, che è incarnato nella società arabo-libica. Egiziana. Io non capisco perché se la devono prendere con questa gente. Poi è gente semplice, umile, che realmente fa tenerezza vederli. Però adesso, oggi sa cosa scrive Sergio Romano sul Corriere della Sera? Certamente lei non ha tempo e modo per leggerlo. Si chiede, ma chi sono questi nemici che abbiamo in Libia? Sono fazioni? Sono estremisti islamici? Chi sono? Ci aiuti a capire lei. Sono copti, sono gente... No, i nemici, cioè gli estremisti, quelli che ci minacciano, l'ISIS, chi sono? L'ISIS... è gente fanatica, estremista, che hanno la testa montata. Chi le ha montate non lo so. Ecco, quindi diventano un pochettino tutti capaci di essere contro. Quindi lei immagina un fanatico, una persona che non è in grado di ragionare con la propria testa, ma è montato dalle persone che sono attorno. Ma quanti sono? Cioè sono così potenti in Libia in questo momento? Non le saprei dire, direi una bugia quanti sono. Sicuramente è un gruppo, forse un centinaio, che poverini, sono gente manipolata e che in qualche modo diventano anche nemici potenziali della Chiesa e della Libia. Però se fossero un centinaio, cioè lei ha sentito, si parla di intervento militare, di ONU, un centinaio sono no, pochissimi. Questa è tutta una montatura. naturale questa. Cioè non io ci non vorrebbe? Capisco, io non capisco che cosa vogliono fare con interventi militari. Non è il caso, non è opportuno e non vale la pena fare tutta un intervento di questo tipo. Certo, gli oppositori vogliono aumentare il numero per rendere importante anche l'operazione, ma non è il caso, assolutamente. Non è il caso. No. Però perché allora tutti gli italiani sono andati via se non sono così, se sono ma solo 100 fanatici? Gli italiani fanatici sono andati via, ve lo faccio dire, è un po' la politica italiana li ha spinti a partire. Ecco, il desiderio di metterci in salvo, questa è la realtà. Mettersi in salvo, fare in modo che la famiglia, il paese, le persone care possano in qualche modo anche mettersi al silenzio. Mi faccia capire, Monsignor Martinelli, glielo chiedo direttamente, lei ha subito minacce? Mai. Quindi non ha subito minacce. I libici stessi mi domandano, ma tu perché non parti anche tu? Ho detto, no, perché devo partire? Io non ho nessun problema con i libici e sto bene con i libici. E sto bene chiaramente con la mia comunità italiana. Però, Monsignore, le voglio presentare, ci sta ascoltando un generale, Carlo Cabigiosu, buongiorno. Buongiorno. Generale che ha comandato, è stato comandante operativo di Vertice Interforze, dell'Interforze, cioè i nostri militari in giro per il mondo. Oggi fa parte del consigliere scientifico di una fondazione, ICSA, che si occupa di intelligence, di analisi strategica. Generale Cabigiosu, sente il Vescovo Martinelli dire forse stiamo esagerando nel dipingere uno scenario così apocalittico e anche uno scenario di guerra. Si parla di 50.000, 60.000 soldati che servirebbero, operazioni di 5 anni, generale. Ma certamente che se uno incomincia a pianificare un intervento potrebbero essere questi i numeri necessari. Io partirei dalla premessa che abbiamo già constatato che dovunque ci sia un'area in cui si perde il controllo, come è successo per la Siria e una parte dell'Iraq, l'ISIS è capace di infiltrarsi e di acquistare il controllo del territorio. E se avvenisse anche in Libia, dopo che è successo in Siria e Iraq, per noi sicuramente sarebbe un maggiore rischio per quello che riguarda la sicurezza del nostro paese, vuoi per il flusso degli immigrati, vuoi per la vicinanza, vuoi per le risorse energetiche che lì ci sono e di cui abbiamo bisogno. Però Monsignor Martinelli, che è, oltre a essere un uomo di chiesa ovviamente, quindi ripudia la guerra in quanto uomo di chiesa, ma anche un profondo conoscitore della Libia, del paese in cui è nato, dice sarebbe un altro grave errore quello dell'intervento militare. Rischiamo di... Infatti si può benissimo aspettare, però si può pianificare. E intanto bisogna cominciare a distinguere l'appartenenza dei vari gruppi sul terreno a questa o quella fazione, chi potrebbe essere il capo dello Stato libico domani, se questo generale Haftar, che in questo momento sembra essere entrato anche nelle grazie di Al-Sisi, il nuovo presidente militare dell'Egitto, può essere affidabile, è un personaggio che è sempre stato a galla, è stato amico di Gheddafi prima, poi esiliato, poi rientrato dopo la caduta di Gheddafi, quindi bisogna cominciare a cercare chi è l'uomo che potrebbe guidare per il futuro. Pensare la al dopo, che è quella mancanza strategica che spesso si ha quando si fanno gli interventi, non si pensa a che cosa può succedere dopo. Però, Monsignor Martinelli, le chiedo, forse a Tripoli la situazione è un po' più tranquilla rispetto, che ne so, a Bengasi, a Sirte, cioè ci sono diverse città della Libia che i giornali raccontano in mano allo Stato Islamico, è così oppure no? No, guardi, la Libia, Tripoli è abbastanza equilibrata, ci sono dei gruppi fondamentalisti che appaiono qua e là, ma in genere è abbastanza calma. È abbastanza calma, io mi sorprendo alle volte anche andando in giro come la gente ti saluta, la gente stessa si meraviglia di questa tensione verso di noi. Per cui io direi la guerra non la vedrei affatto. Neanche un intervento dell'ONU per cercare di pacificare peacekeeping. Un intervento dell'ONU può farlo, ma senza tirare troppo l'ira dei fondamentalisti. Quindi è una presenza la nostra, discreta. La comunità di quella che lavora è una comunità discreta, che lavorano negli ospedali, sono le Filippine, lavorano nelle case di cura. Quindi io non vedo perché noi dobbiamo preoccuparci davanti a questa gente che noi incontriamo quotidianamente e di cui siamo amici. No, forse preoccuparsi però dei fanatici che ci sono, che anche lei dice purtroppo ci sono. C'è qualche fanatico, chiaramente ci sono i fanatici, ma noi non dobbiamo renderli fanatici, perché il fanatico si diventa, se c'è qualcuno un po' così matto con la testa, può rendersi pericoloso, questo sì. Ovviamente nel ringraziarla e fare tanti in bocca al lupo e salutarla, le chiedo questo, Monsignore, tanto le avevamo chiesto anche all'epoca, fu un errore, vista oggi, la guerra che fece destituire Gheddafi? Non ho capito, scusa. La guerra che fece cadere Gheddafi fu un errore? Ma non direi un errore, ma sicuramente non era il modo. Gheddafi è andato via, Dio l'abbia in pace, ma non è stata la persona più cattiva per noi, ma anche per l'Italia. È stata ancora una persona moderata che in qualche modo ci ha amati e ha avuto per noi parole di stima, di rispetto. Moderata forse non è la descrizione che molti giornali danno di Gheddafi, anche per il modo in cui ha tenuto il potere in Libia. Guarda, il potere, sono d'accordo, però non vedo la usare la forza per buttare giù un capo di governo, non credo che sia lo stile giusto. Anche perché ripeto, il mondo libico, il mondo arabo libico è un mondo che va incontrato, e quindi forse è più facile ottenere di più dell'incontro nella forza. Intanto noi la ringraziamo, Monsignor Martinelli, grazie per essere stato con noi. Torneremo magari a disturbarla nei prossimi giorni per capire grazie come va. Voi. Il vescovo di Tripoli, Giovanni Innocenzo Martinelli, e dopo la pubblicità approfondiremo, però intanto vorrei chiedere al generale Cabigioso un'altra cosa, cioè questa: si parla spesso, generale, di quello che fu fatto nel 2011 contro Gheddafi. È sempre lì la questione dell'errore, di mancanza di profondità di visione, cioè fu fatta una guerra senza pensare al dopo, e il dopo lentamente è la situazione in cui ci siamo trovati ora, no? Beh, è un po' quello che è successo in tutti i paesi che sono stati artefici di grandi cambiamenti con la cosiddetta primavera araba. In altri stati dell'Africa settentrionale è avvenuto spontaneamente con moti popolari. In Libia è avvenuto sotto lo stimolo e l'intervento di forze esterne, però in tutti questi paesi non si è stati in grado di realizzare una stabilità interna attraverso un normale processo di selezione della classe dirigente. Non voglio parlare di democrazia perché sennò il discorso si amplia molto, ma certamente l'unico paese in cui ci si è resi conto che il rischio di un islamismo estremo avrebbe potuto gettare il paese nel caos più totale è stato l'Egitto, dove i militari hanno preso di nuovo il potere. Certo, non è forse la medicina meno amara, ma è quella che in un certo senso ha aiutato almeno uno di questi paesi a rimanere nell'ottica di una certa capacità di autogoverno. A questo proposito, l'Egitto, ma su base di quale, perché si parla di ONU, ma sulla base di che cosa l'Egitto si è sentito legittimato a bombardare ieri in Libia? Perché? È vendetta pura. ancora, a parte il fatto che adesso esiste già una coalizione di, mi sembra, 17 stati che combatte contro l'ISIS, che si è installata a Raqqa e nella parte settentrionale dell'Iraq e orientale della Siria. Di fatto è una violazione, se vuole, cioè nel senso, ci hanno ucciso 21 persone decapitate e noi facciamo i raid, ma certo, senza esattamente come ha fatto la Giordania dopo che è stato bruciato vivo il suo pilota, anche se la Giordania in effetti fa parte ufficialmente di quella coalizione, ma è una coalizione un po' così sui generis, in cui tutti i partecipanti calibrano la loro partecipazione e i loro interventi in base a sensazioni del momento, non c'è una pianificazione così consolidata, sì, di quello che c'è da fare. L'Italia per esempio sta partecipando inviando personale per l'addestramento degli iracheni in Iraq, che dovrebbero poi essere loro i protagonisti della lotta contro l'ISIS. Ma no, in generale quello che io ritengo è che bisogna scalzare un po' di terreno da sotto i piedi dell'ISIS, se no di vittoria in vittoria, di fatto eclatante in fatto eclatante, molti fanatici e spostati da un punto di vista sociale, politico, trovano ispirazione. Questo sì. Allora ripartiamo dopo la pubblicità, racconteremo anche che cosa può succedere sul fronte della migrazione, perché si racconta di 200.000 persone pronte a partire dalla Libia, controllate appunto dai fanatici come arma proprio di pressione sull'Europa. Altre cifre dicono 600.000, adesso sulle cifre dobbiamo stare attenti. Comunque avremo con noi Francesco Viviano, giornalista di Repubblica, che su questo ha scritto cose molto interessanti. 24 mattino. Siamo qui alle 8:41 minuti. Allora, con noi c'è il generale Carlo Cabigiosu. Voglio salutare anche Francesco Viviano di Repubblica. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Buongiorno allora, a voi. Perché oggi si leggono stime di 200.000 migranti, qualcuno dice 600.000, adesso con le cifre andiamoci piano. Ma tu hai scritto di recente che la Libia, e non solo la Libia, le coste libiche sono in parte controllate da, come dire, estremisti, fai anche il nome, secondo i servizi segreti ci sarebbe Abdel Rauf Kara, uomo che controlla e gestisce gli sbarchi. Allora, dobbiamo temere questo, cioè usare anche i clandestini, i migranti come arma di pressione sull'Europa? Ma è la stessa cosa che aveva fatto anni fa Gheddafi, quando, a seconda delle situazioni politiche europee, soprattutto in particolare con l'Italia, apriva o chiudeva i rubinetti e quindi ci mandava o bloccava l'invio di extracomunitari che purtroppo stazionano lì anche per anni in territorio libico. Il problema è chi è che le controlla le coste in questo momento? E davvero sono controllate da, come dire, non da quello che rimane delle autorità libiche? Ma come avete visto anche in questi giorni, l'ISIS ha conquistato e sta, come dire, sta espandendo piano piano in gran parte del territorio libico, e quindi è chiaro che loro hanno, come dire, un'organizzazione anche economica per autofinanziarsi, dal contrabbando del petrolio al controllo dei possibili petroliferi che poi vendono di contrabbando, al traffico di armi, e quindi perché non star fuori a guardare il traffico dei clandestini, che è molto più remunerativo. E quindi ci sono molte bande, in particolare quella che tu hai nominato con quel nome difficile per me, che controllano l'ingresso in Italia e controllano i barconi soprattutto, non tanto per infiltrare tra i clandestini terroristi, che possono pure essere, no, ma solo come arma di pressione, cioè voglio dire mandare arma di pressione, soprattutto mettere in difficoltà l'Europa, ma soprattutto l'Italia, e soprattutto per far soldi, perché fanno tanti soldi. Se voi calcolate che mediamente un viaggio costa almeno $3.000, sì, ne sono arrivati 300.000, 400.000, fate pesate. moltiplicazione per 4, 12, fa chiaro, un miliardo. È un business notevole. A questo proposito, due giorni fa è successa una cosa, un episodio per me gravissimo, per il quale magari il generale Cabigioso ci può aiutare a capire, se non militare, che cosa si può fare in questi casi. Generale, è intervenuto la capitaneria di porto al largo delle coste di Tripoli, hanno soccorso 200 migranti, è arrivato un barchino con 4 armati di Kalashnikov, hanno sparato a pelo d'acqua a dire ridateci il barcone che abbiamo utilizzato, e la capitaneria di porto oggi sul Giorno raccontano: noi avevamo le armi, ma sarebbe successa una strage se avessimo risposto al fuoco. Insomma, c'è questo scenario, generale, addirittura adesso si profila l'idea che si presentano, ci fanno sbarcare i migranti, magari poi ci sparano anche, ma che succede? Beh, certamente che questo episodio è stata una escalation in quella che è la procedura che normalmente avviene in questi casi. Noi ci prendiamo i poveri naviganti dispersi nel mare, li carichiamo sulle nostre navi e ci trainiamo dietro il loro barcone, che poi viene ammucchiato in qualcuno dei porti siciliani o di Lampedusa. In questo caso invece c'era un'altra barca, un'altra imbarcazione con a bordo degli armati, che ha preteso la restituzione di quest'altra imbarcazione. Credo che con questo scenario sia il caso di fare i conti per il futuro e dimostrare comunque la capacità delle nostre unità navali, della capitaneria o della guardia costiera o della marina, di non subire queste tipi, ma non subire che vuol dire anche poter avere delle regole di ingaggio per cui si può rispondere al esattamente fuoco. Quindi bisogna che in questo momento si stabilisca anche, d'accordo con la magistratura italiana, quali sono le azioni che possono essere portate avanti in questi casi. Ovviamente nello spirito di qualunque persona c'è un po' di meraviglia per questa prepotenza subita senza reagire, anche se di mezzo c'era la vita di quelli che erano stati appena trasbordati. No, ma infatti oggi sul Giorno, Viviano, voi insomma capite bene cosa vuol dire, anche essendo più vicini fisicamente, no? Ma c'è questo scenario addirittura di trasbordo di migranti e anche azioni di guerra vere e proprie in mare per recuperare i gommoni. Come si cerca di fronteggiare questo possibile escalation? Vabbè, questo problema è, come vedete, reale, è venuto fuori questo episodio, ma chissà quanti saranno avvenuti, non lo sappiamo questo. E c'è anche un problema, come dire, logistico da parte dei trafficanti, di extracomunitari. Cioè barche o gommoni c'è sempre di meno, perché tutti quelli che sono partiti con il barcone o con i gommoni in tutti questi anni, soprattutto nell'ultimo anno e soprattutto in questo inizio d'anno, che fine fanno? In genere vengono, tra virgolette, affondati o autoaffondati, perché trascinare un barcone per 120 miglia in condizioni di mare, a volte mare forza 5, mare forza 6, anche di più, è anche complicato e pericoloso per gli stessi salvatori. E c'è anche, ti ripeto, la necessità per i trafficanti di reperire sempre più imbarcazioni che prima venivano, come dire, acquistate con pochi soldi dalla vicina Tunisia. Infatti c'è una carenza di barche, sono quasi tutte barche in legno, quindi fabbricare una barca in legno ci vuole del tempo. Adesso, visto che sono costose e preziose, se le riprendono pure, le usano, esatto, e se le riprendono, esatto, armi in pugno. Beh, insomma, esatto, è uno scenario incredibile. Mi fate è terrificante, però non sono d'accordo col generale quando dice che è d'accordo con la magistratura. Vabbè, sì, una magistratura che certo può gestire anche questo, la guerra per esempio, lo scontro armato. Mi sembra un po'. Forse d'accordo con la magistratura vuol dire che se spariamo, poi mi faccia capire, generale, vuol dire che poi non è che arriviamo ad Agrigento e si apre un fascicolo per. Quello è sicuro, guarda. Quello è sicuro. Sicuro. Generale, quello è sicuro. Intendeva questo d'accordo con la magistratura. Ma certo, bisogna che le regole di ingaggio siano stabilite in base a quello che prevede la legge italiana. Se fossimo con uno stato dichiarato di guerra contro un paese o altro, comunque ci sarebbero delle regole di ingaggio da rispettare, ma in questo caso si potrebbe parlare di autodifesa o di qualcosa del genere, ma sicuramente dopo l'episodio dei nostri marò in India, prima che i nostri marinai sparino a qualcuno, vogliono avere delle garanzie. Una garanzia, sembra più che giusto. Garanzia. Anche perché lo scenario che si è prospettato è addirittura se questi invece del barcone volessero fare un assalto armato e prendersi per esempio qualche ostaggio italiano, voglio dire, dobbiamo capire anche questi scenari. Vorrei sentire Fulvio che ci chiama da Roma. Buongiorno Fulvio. Ciao, buongiorno a tutti. Sì. La mia osservazione è semplicemente questa, che questo è l'ennesimo caso in cui si vede la nostra mancanza di intelligence e di intelligenza. Questi sono sempre scenari estremamente complessi, sì, di cui noi, e questo certo, un po' voi giornalisti ne avete colpa, cercate di semplificare in maniera che alle volte anche ridicola, per cui quelli che erano i buoni dopo due mesi si scoprono essere i cattivi e poi ancora i cattivi non erano proprio i veri cattivi, allora i cattivi erano quasi buoni. Guardi, ecco, Fulvio, colgo la critica e va bene, va bene. L'Africa. E queste semplificazioni sono semplicemente ridicole. Le parole del vescovo dovrebbero un attimo illuminare chi sta lì da 50 anni, sì, ha una visione. Ha ma una infatti visione. Guardi Fulvio, lei dice una cosa giusta, va bene, colgo le critiche, le accolgo, va bene, sulla categoria, certo, cerchiamo sempre di semplificare. Guardi, caro Fulvio, che lei ha citato proprio il vescovo Martinelli, lei non sa quanti messaggi sono arrivati a dire ma dov'è questo vescovo, ma si rende conto di quello che sta dicendo? Questo vescovo da 45 anni vive in Libia, quindi io non lo so, cioè, ho accolto con molta soddisfazione le parole del vescovo Martinelli, non lo so, che ha sminuito un pochino il problema rispetto a quello che c'è se uno legge i giornali italiani. Ora voi mi dite, dobbiamo credere al vescovo Martinelli a dire che sono poche centinaia di fanatici e basta, oppure dobbiamo credere ai giornali italiani che sono ridicoli per Fulvio a fare un'analisi superficiale? Non lo so, di certo il vescovo Martinelli, che viene criticato dai nostri ascoltatori via SMS, sta lì da 45 anni, qualche cosa della Libia ne saprà. Comunque accolgo la sua critica, caro Fulvio, torneremo su questo tema, per il momento mi devo fermare ringraziando Francesco Viviano di Repubblica e Carlo Cabigiosu, generale della Fondazione ICSA. 24 mattino. Qui, come sapete, noi chiamiamo ogni giorno un ascoltatore, ascoltatrice dall'estero. Scriveteci, tra l'altro, continuate a farlo, 24 mattino e radio24.it, e noi vi chiameremo in onda. Oggi voglio salutare Monica. Buongiorno Monica. Buongiorno. Che non è solo una storia di un'italiana, è una collega, è Monica Luongo, possiamo dire, per tanti anni giornalista dell'Unità, che oggi vive a Islamabad. A Islamabad in Pakistan, perché questa scelta, Monica? Perché io sono, dopo la fuoriuscita storica dall'Unità nel 2000, mi sono trasformata e sono attualmente un'esperta di processi elettorali e di donne e sviluppo. Quindi ho lavorato in Africa per quasi 10 anni e 2 anni fa sono arrivata in Pakistan per seguire la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea e ho deciso di rimanere qui. Ma che bella questa storia. Io so che tu ci segui. Come ci segui sull'online? Non so. Dunque, a parte oggi, sì, dopo le 7 vi ho perso, vi seguo online con lo streaming o in podcast. Hai visto, Monica, che insomma qua si parla tanto di Stato Islamico, oggi ci sono giornali che titolano arriva la terza guerra mondiale, con tutto un fronte islamico in alcuni casi radicale che va a imbracciare fino anche al Pakistan. Come la vedi tu la situazione lì da un mondo che ha una percezione magari opposta a questa nostra occidentale? Guarda, la vedo difficile da analizzare, sento, ascolto moltissimo sia dall'Italia insomma che dagli altri paesi, che ovviamente dal Pakistan. In Pakistan c'è molta attenzione su quello che sta succedendo in Europa, ma gran parte dei pakistani è convinta che quello che sta succedendo in Europa non sia terrorismo, nel senso che loro sottovalutano, secondo me, il nuovo fenomeno, diciamo, di quelle che sono chiamate le cellule dormienti. Sì. ed è diciamo, come un po' da noi manca una visione generale di quello che sta succedendo, perché i fenomeni sono simili, ma Boko Haram non è il califfato in Siria, non è l'Iraq, non è il Pakistan, non è l'Afghanistan. È una situazione, come si diceva, molto complicata, non facile. Esatto, cambia continuamente. E quindi anche qui gli analisti politici, che sono pure brillanti e attenti, in realtà non riescono a fotografare bene. Monica, dici che cosa dal Pakistan, cosa questa nuova vita ti ha colpito in positivo rispetto all'Italia? Il paese è un paese affascinante, ha moltissime facce, le grandi città sono Lahore, Karachi, sono vive, vibranti, arte, letteratura, come dire, grande vita sociale, quindi l'immagine è un'immagine che non arriva ovviamente nel mondo occidentale. Io ho vissuto a Lahore, ho vissuto nel sud del Punjab in piccoli posti, aree desertiche, e la situazione è completamente differente, qui giro senza velo, metto la gonna, non ho problemi. Nei centri più piccoli sono ovviamente vestita come le altre donne, col capo coperto, però effettivamente, diciamo, sei, come diceva un nostro vecchio amico, sei nel posto dove stanno succedendo le cose. Ma guarda, però fermati qui perché io devo chiudere, ma tornerò a chiamarti. Monica, ciao, Monica Lungo da Islamabad, e noi ci troviamo domani.